Hashtag Autotrasporti. Buongiorno da Andrea Ferro, bentrovati all'appuntamento del sabato con Autotrasporti. Un incontro urgente con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio. A sollecitarlo sono le associazioni degli autotrasportatori che già da settimane chiedono un confronto sui temi al centro dell'attenzione della categoria. In primo piano la paralisi della viabilità in Sicilia in seguito all'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania e poi le nuove norme emanate dalla motorizzazione sulle revisioni annuali, giudicate penalizzanti, fino ai ritardi nelle procedure per rendere disponibili 250 milioni stanziati dalla legge di stabilità per interventi a sostegno del settore. Nella lettera inviata a Del Rio a nome delle varie associazioni, il presidente di Unatras, Amedeo Genedani, sollecita la convocazione al Ministero. In caso contrario, non esclude iniziative di protesta. E torniamo all'emergenza in Sicilia in seguito all'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania. A Catania il sindaco Enzo Bianco ha insediato un tavolo operativo per studiare percorsi alternativi che garantiscano l'approvvigionamento di merci per il distretto del sud-est dell'isola. Nel corso della prima riunione è emersa la proposta di imbarcare le merci, soprattutto prodotti ortofrutticoli, su navi veloci. Il maggior costo sarebbe compensato da un incentivo statale o regionale come l'ecobonus, sollecitata anche la sospensione dei pedaggi autostradali. E lunedì a Catania è in programma un nuovo incontro con i rappresentanti di tutte le categorie coinvolte. Ma il problema delle reti non è solo in Sicilia. Tra pochi giorni, infatti, a Milano si inaugura l'Expo, che inevitabilmente inciderà sulla viabilità attorno alla città e non solo, con conseguenze anche per il mondo dell'autotrasporto. In quale misura e con quali conseguenze nessuno è in grado di prevederlo. Come scrive Quattro Ruote nell'inserto dedicato a Milano, l'ultimo studio sulla viabilità cittadina risale infatti al settembre 2011, quindi non coincide con le ultime valutazioni degli esperti. Parlano di 9 milioni di veicoli in più, con una media di 30.000 al giorno e punte di 250.000 nei fine settimana. Insomma, il rischio della paralisi, almeno in determinate giornate, pare piuttosto alto. Una patente professionale che comprenderà un bonus fino a 200 punti da assegnare a chi, per lavoro, macina migliaia e migliaia di chilometri al volante: autotrasportatori, rappresentanti di commercio, tassisti, autisti, cioè professionisti della strada che per la loro attività rischiano più di altro di incorrere nelle infrazioni al codice della strada, subendo quindi penalizzazioni sulla patente. È la novità contenuta nella proposta di legge presentata alla Camera da Arturo Scotto di SEL, componente della Commissione Trasporti, che al nostro microfono spiega il senso dell'iniziativa. Ma innanzitutto noi vogliamo provare a garantire, nel rispetto ovviamente delle leggi e anche nel rispetto, diciamo, delle ammende economiche che resteranno, delle multe in particolare, un bonus per gli agenti di commercio, per i camionisti, per i tassisti, cioè per quelli che lavorano con mezzi di trasporto privati, per evitare che i punti che sono garantiti abitualmente portino alla perdita della patente. Parliamo di un problema concreto. Lei immagini soltanto, per un agente di commercio che fa migliaia di chilometri all'anno, cosa può significare perdere un punto di patente, a rischio, diciamo, la tenuta lavorativa e la stessa possibilità di percepire un salario. Con il mille proroghe, le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sono state rimandate al 2016, ma intanto entro il 30 aprile, cioè entro giovedì prossimo, le imprese di trasporto di rifiuti pericolosi e le altre aziende soggette al SISTRI, il sistema di controllo e tracciabilità, dovranno versare il contributo annuale. Una contraddizione di fondo destinata a penalizzare le aziende in regola e di fronte alla quale le associazioni di categoria hanno protestato chiedendo modifiche al testo. L'appuntamento del sabato termina qui con Hashtag Autotrasporti. Noi ci risentiamo lunedì sera alle 21.45. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio a tutti. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.